Ho due belle notizie da darvi. La prima, che Silvia Mezzanotte è tornata con i Mattia Bazar. E la seconda, che saranno qui in diretta con noi domani a Essere Benessere. Ascoltando i brani del loro ultimo album, parleremo di che cosa sta dietro alla voglia di prendersi e lasciarsi. Sono Nicoletta Carbone, vi aspetto insieme ai Mattia Bazar domani alle 11 su Radio 24.